Patrick Udiece, Natalino esci fuori, così. Chi sta a Bollisi? Teghere. Natalì, sto uscendo a fischi per caso? No, negativo. Ah, che strano. Intanto mi viene questo dubbio. Niente. Claudio, sarà passato qualcosa? Negativo. Sarà impegnato. Comunque gli ho dato. C'era lui. Cosa ti volevo dire? Ma stamattina non c'era nessuno, no? Sono un paio di chiamate che ero fuori. C'era una propagazione terribile anche oggi. C'ho l'impressione che la radio sia troppo forte. Fa dei picchi enormi. È possibile? Abbassala un po'. Non è forte, è forte. Ah, è forte, confermi. Quindi l'abbasso. Devo abbassarla. Ecco, l'ho abbassata. Parecchio. Va meglio? Benissimo, va così. Capito? Non è che ha abbassato molto di volume. Perché non vorrei aprire il microfono, perché questo è autocostruito, c'è là dentro. Che strano, però. Boh, lo fa da solo, ma non c'è la dilatazione. Sto sventiando con i PL, questi maledetti, guarda, è un paradosso veramente che dobbiamo combattere con i PL perché non agganciano. Non agganciano al coso, al portatile praticamente, e c'è un'antenna che balla. E balla, balla, balla, alla fine ovviamente si scassa tutto, no? Perché una volta che stringi, il PL deve stringere, non rimanere così l'arco, che non fa neanche contatto. È una guerra, tu prendi quello che vuoi, sono tutti uno peggio dell'altro. Ma cosa vuoi che ti dica? Con quel canale di servizio puoi passare, Gianfra? Se riesco a trovare il telefono. Cioè il telefono, la radio. Oggi sono rintronato, guarda, c'ho mal di testa. Dove diavolo era l'altra radio? È talmente piccola che non la trovo. Dammi. Adesso l'accendo. Del calcio, cosa ci vuoi fare? Non è che posso non è che posso cambiare io lo sistema. Il sistema è quello e io com'è lo prendo? Non c'è problema. Dice Gianfranco, avanti Gianfranco. Sì, c'eravamo anche poco fa con Natalino, ma eravamo un po' in stand-by perché stiamo incassando col solito PL, guarda. C'è un PL, questi PL è una disperazione. Prendili buoni, prendili cattivi, prendili di plastica, di gomma, eccetera. Sono una disgrazia. Stamattina me l'ho portato appresso con l'apparecchiatura che ti ho fatto vedere. Sono sceso al mare. Preparazione, poi vado a guardare l'antenna, me l'ho staccata. Allucinante, guarda. Sono allucinanti, è una vergogna. Ma no, se non ha niente quel PL, io ero stasera, no, passo a Fugiaro a prendere qualche minuteria, ho preso 5-6 PL, altrimenti li riscopro. Arrivo a casa, mi hanno fatto due ispezioni di H1000, così giusto perché non avvitano. Non avvitano alla radio, avevo ragione Gianni Opiorum, non avvitano alla radio, c'è la ghiera corta. Se te l'ho detto, ma scusa, io ho i commutatori, quelli seri, d'antenna. Sono andato, io l'avevo preso da, non ricordo da chi, se l'ha fusato da chi, ma sono lui che li vende, quindi. Sono andato a metterli, dopo aver tutto saldato, benino, eccetera, vado a metterla, non entra. Non entra, non avvita proprio. Cioè, guarda, sono cose che ti fanno incazzare come una iena. No, non ho vita, non c'è niente da fare. Devi cambiare la ghiera, io fortunatamente c'avevo dei PL vecchi, ho tolto la ghiera, quella lunga, e hanno avvitato. Se no, ma infatti vado a dire il riporto per il culo a barri. Vai Giulio. Perché bisogna andare dall'artigiano e farsi fare su misura il PL. Ormai è così, purtroppo. E domani andiamo da qualche gioielliere, così ce ne facciamo fare di oro, così almeno avviteranno. Una scena, non è possibile, ma dimmi tu cosa si deve sentire. Ma quando mai i PL non devono essere controllati e fatti come si deve? Comunque questa è una cosa che ho sentito già tante volte da lui CB, che appunto non avvitano bene il PL, non è possibile. Ciao Gianfranco, riprendi. Sì, già. Ciao Giulio, buonasera. Guarda, una cosa, meno male che queste nuove hanno il sistema di allarme, perché sennò saremo ogni giorno bruciando radio, guarda, che vergogna, ma che schifo. Io non sto richiedendo di farmi pagare di meno o quelle cose lì, ma almeno dimmi, guarda, questo costa 10 euro, però è garantito a vita, un PL di merda che te li sbattevano in testa prima. Che ti rovina, ti può rovinare una radio facendo dei danni inimmaginabili. Per carità, guarda, sono. E così anche con gli altri, che cavamo su giù. Alla minima, intemperie, eccetera, sono dovuto andare, ma infatti ne faccio tutto adesso. Mi metto col saldatore, faccio saldature e e così risolvo il problema, perché non è più possibile, veramente. C'ho il cassetto pieno tra quelli radio, quelli di videosorveglianza che nuovi, tolti dalla busta, proprio non è a dire, ma li ha usati, no, tolto dalla busta, l'ho collegato, vado a ristaccarlo e mi rimane tutto in mano. Guarda, è una cosa vergognosa. Riprendi Natale. Sì, infatti. Gira, mi sembra che salgo in campagna e ne taglio quei cavi e mi recupero il PL. Perché cosa li compri a fare da Fusaro? Si non andare. Io l'avevo fatta arrivare da fuori tempo fa, 4,90 euro, però l'uno, non certamente 1 euro, 1,50 euro come li vendono qua, che quelli per carità. E più ne ho un bel po', insomma, quelli che mi servono, di quelli antica, diciamo così, da tantissimi anni vanno bene tutti, per cui non ho trovato questa difficoltà, ma ho sentito tanta gente lamentandosi a posto del PL che non abitano, la penetratura addirittura è differente proprio. Purtroppo è così, e cosa ci vogliamo fare? Si vede che hanno cambiato macchinari e soprattutto sezioni di penetratura, eccetera. Vabbè, avanti Claudio. E non c'è problema, tu hai detto non avvitano bene, non avvitano per niente, sono corti. Tra il maschio e la femmina non avvita, entra la punta e non avvita, capito? Quindi di cosa siamo provvidenti? Stiamo parlando di una cosa che non funziona, l'hanno messa in vendita, nonostante qualcuno gliel'avesse già detto. Sì, ma loro chiaramente dicono, non li ho costruiti io. Io le ho fatte arrivare dalla fabbrica, evidentemente oggi le fanno così, però rispetto al PL da pannello, cioè quello che c'è attaccato alla radio, non è compatibile, e allora il motivo è quello, evidentemente è così. Ma cosa volete dire? È una vergogna però, dai, è veramente una vergogna. Avanti Gianfra. Sì, vergogna, vergogna solo. Io non capisco mai perché le aziende italiane sempre lamentandosi di tutto, di questo, di qua, ma perché non si mettono anche loro a produrre roba di qualità? Se lo fa pagare 3 euro così almeno la gente li guarda bene e li compra. E che cavolo, non saremmo solo noi a usare PL, no? PL, BNC e quello che c'è. L'ultima l'ho riparata stamane, l'ho dovuto togliere tutto e rimetterci di altro tipo. È una cosa veramente vergognosa, dai. Non ci sono parole, riprendi Claudio. Boh, ho sentito un fischio sotto, non so se c'è qualcuno che vuole entrare, avete parlato in due, avanti? Forse avete parlato in due. Vabbè, no, io li avevo comprati fuori in continente PL per i connettori. Adesso ero lì, li ho comprati, ma se li riporto indietro a fusare perché non servono a niente. No, io l'avevo fatti arrivare un paio, non io personalmente, me l'avevo fatti arrivare, cioè l'avevo chiesto a Luca, dai, e Luca me li ha fatti arrivare, ma sono di quelli anche professionali, tra l'altro, non è il solito PL con la ghiera, quella che si avvita dietro, no, si apre addirittura PL, poi rimane dentro tutto ben chiuso, proprio ci vuole addirittura la doppia chiave per poterli stringere e vanno benissimo. Che poi tra l'altro non l'ho mai usato, perché sto usando sempre quelli che ho all'antica, diciamo, per così dire, e mi vanno bene dappertutto perché ce li ho tutti quelli che sto usando, vanno tutti bene perché appunto sono sempre di quelli di tanti anni fa e funzionano alla grande. Anche sulla Camille, sulla capo di scelta che io ho messo quello e va benissimo, anzi ti dirò di più, il capo centrale, il polo caldo della Camille entra addirittura talmente perfetto dentro che non c'è bisogno nemmeno di saldarlo, per cui vedi bene che ancora ce li ho quelli vecchi e me li tengo perché so che funzionano bene, almeno se no anch'io avrei avuto questi problemi. Avanti Gianfra. Sì, vogliamo parlare di quelli lì che stai dicendo tu Giulio, professionali, comprati anch'io, costa oltre 5 euro l'uno, c'hanno la gomma dentro, antiacqua, sono stagni, anzi sono, dovrebbero essere stagni, tutto piazzato bene in regola d'arte, dopo un po', a posto di durare anche 5 anni come quelli che abbiamo conosciuto in giovinezza, no? Quelli in Bartelite o quegli altri, prendo dentro tutti bagnati, rugginosi e marci, le antenne, gli apparati che andavano male, cioè ma cosa cacchio dobbiamo comprare? Ma non bastano 5-6 euro per un PL ma, spacciato come professionale, che lo devi avvitare con le chiavi apposite, che c'ha il gommino anche antiacqua e tutto quanto, con un cavo che costa un occhio alla testa. No, non va bene. Vabbè, allora vuol dire che dovremmo togliere tutti i PL, ma che femmine fare le saldature? Se è questo che bisogna fare, lo facciamo. Basta che ce lo dica, no? Lo so, Gianfra, però come fai poi? 30 metri di cavo, perché ne ha 30 metri, io ne ho 25, per la verità. deve rimanere fisso attaccato all'antenna, insomma no, non è molto comodo. Sì, infatti sto parlando di quelli lì, ma io ho pagato 4,90, mi ricordo, 4,91, per cui c'era sempre, non li ho mai usati, mai. Allora sto usando sempre quelli vecchi, alla grande, tranquillamente, sono di bacchelite, di quelli proprio ogni una volta, così dicono con una bassa distorsione, poi non lo so quanta distorsione possono avere, questo non lo so. E beh, devo dire che non ho avuto mai nessuna difficoltà, per cui va bene così. E dicono loro, PL nuove, cioè PL vecchie e radio vecchie, PL nuove e radio nuove, se no non funziona. Sicuramente loro la pensano in questo modo. Vai Nathalie. Bene, sto scendo giù. Sì, stiamo scendo benissimo, avanti. Perché ho cambiato apparato. Va benissimo, non c'è problema. Dai, fai girare, lo riprendi. Cappa, un attimo che sto mettendo a posto una cosa. Va bene, vai Claudio. Vabbè, loro possono dire quello che vogliono, però qua il problema è che non andava. Vabbè, non funzionano questi PL che stanno vendendo, quindi li devono togliere dalla circolazione, altrimenti è un casino. Datemi 10 minuti dietro subito che c'ho gente, riprendi già. Sì, Giulio, mi devo allontanare per qualche minuto per andare in officina, che per reggere il PL, guarda, è per reggere il PL, perché questo falso non si può cambiare, perché è attaccato a un'antenna. Devo farle praticamente una corazza di sostegno con un tubo particolare, meno male ce l'ho, così le fa da portamento, no? Perché tipo con l'antenna, non so se c'è presente, ci sono anche VHF che le mettono, che hanno il PL sotto, no? A posto di avere la farfallina, hanno direttamente il PL s'avvita sulla capota oppure sul basamento magnetico. E questa, c'è un basamento in cui si avvita e deve reggere un'antenna che tra l'altro non è neanche pesante, eppure stamattina mi è rimasto in mano. E adesso le faccio un basamento magnetico per farle lo scheletro di sostegno all'antenna, voglio vedere se mette giudizio. Adesso mi aspetta il coso, il basamento, ma l'antenna non esce, voglio vedere. Certo che sì, se fai un accessorio giusto, adatto, in modo che non possa staccarsi, tanto meglio, ci mancherebbe altro, questo sì. Però è ridicolo addirittura fare un discorso del genere per un problema quasi inutile. Io mi chiedo, ma quando mai quelli che costruiscono il PL non hanno mai pensato di prendere il PL 239, che è quello che è attaccato alla radio, quello da pannello, e hanno misurato, non hanno mai avuto questa intelligenza di fare questa misurazione, cioè di provare se avvita bene, se tiene, eccetera. Boh, io mi chiedo questo, mi sembra strano che una casa, perché queste sono cose che fanno le industrie, non è che le fanno così un pincopallino qualsiasi, sono produzioni industriali, di conseguenza dovrebbero funzionare bene, senza dare problemi a nessuno. Non lo so cosa volete dire, purtroppo è così. Va bene, dai. Allontanati pure Gianfra, non c'è problema. Io rimango in attesa, poi già sono qua. Chiamate quando ritornate, vai. Sì, ok Giulio, adesso vado. Il problema è che non lo fanno le persone queste cose, capito? Le fanno le macchine numeriche, anche perché in pochi secondi se ne sfondano a tonnellate. Basta un'impostazione sbagliata sulla macchina numerica e ti produce lo scarto, a meno che questi in realtà non siano degli scarti veri e propri che rimettono in commercio per riguadagnarci, però almeno abbiamo la bontà di dirci quali sono quelli buoni, perché anche qualche ampere non è estraimitato, stracopiato, anche lì ci sono problemi perché ci sono i falsi. Comunque, così come le antenne, anche le antenne le diamo ad esempio, devi stare attento che sia originale, perché se te ne capita una di quelle taroccate, senza acqua, tempo un anno, tra l'altro per la carità, e non non so neanche napoletani che la fanno, tra l'altro. Devono essere cinesi sempre. Ok, mi sto allontanando. Ok, d'accordo. Quando rientrate fate una chiamatina. Ok, a dopo. Canale 10, c'è qualcuno qua in ascolto? Pronti? Gara gara. Benvenuta lì, buonasera. Ciao Fra, ascolta, un controllo, come sempre sto uscendo, sto usando il 3009. Sì, sì, bene, bene, segnale fortissimo, sei oltre 930 e la radio è ottima. Grazie, il microfono normale sto usando. Va bene, radio perfetta, pulita, senza fronzoli, da. Mi va a piacere. Sta rinfrescando un po', Ho aperto le finestre, adesso si respira un po'. Meglio così. Caspizzina, la Viubin sta ricattando bene, ho preso e ho messo tutto a posto, va. Qua. E perché com'era prima? Non era in ordine? Già era in ordine, ma te lo spiegherò un altro momento, va, qua non fa. Kappa, tre bien, importante che hai risolto tutto. Anche qua ho tutto sparso su un tavolo più una cassettiera che c'è a fianco, c'è un po' di tutto, va. No, qua già l'ha messo bene, c'è un altro problema, capì? Cerca di capire. Già va bene, dai. L'importante è che hai risolto. Che sei tranquillo. E infatti, ho risolto. Almeno questo è omologato, dai. E va bene, l'ho ritornato come era prima, non c'ha né canali né nulla. Quindi va bene così. Grazie, quello che ci basta già c'è, dai. Poi abbiamo sempre quella frequenza famosa. Quella dell'acqua, che ci ho messo la fascetta d'acciaio per attaccarlo al tubo, il filo. Quella non tuia, la modifica lasciala, tanto quella non... quella è omologata. Beh, per forza, questa va là, così no, non funziona, se non riboneghi su vivo. Quella addirittura è bassa potenza, quindi quella non disturberà mai, con 0,05 mW. E infatti, vabbè, vorrà dire che dovrò modulare così, gli ex non li può su va, a meno che non li faccio qua, su questi canali. Abbiamo parlato con Pantelleria, è raro dice collegare la Sardegna e l'abbiamo collegata, mi sembra che fosse sul canale 11, loro trasmettono sull'11 e noi eravamo sul altro, però sempre su questa frequenza qua, su questa banda qua, dai. E infatti, solo che a me mi viene male, vabbè, se parlano qua vuol dire che li colleghiamo e se no non ne avremo di ex, assolutamente. Non ci preoccupiamo per quello, tanto per i 5 minuti che siamo qua siamo guattrugliati. E una portante vulo. E infatti 5 della portante, siamo quasi che c'è 4 più 1 siamo. E l'antenna è sempre quella con la punta un po' piegata. Infatti c'ho sempre quella, perché è un problema, se no me l'avrei cambiata, mi avrei messo una di quelle Game Master, mi avrei messo, che senza radiali. E quella come l'hai messa quella lì, quella che c'è adesso, come è stata messa? A mano, ma avevo voluto Gesù Cristo a piazzarla come te piazzata. Infatti è sorta, perché ha toccato quella punta lì. No, questa che prima di si è rotta, ma la prendo con una mano, la prendo, la sollevo, la infilo dentro del tubo che la tiene. Tutto con una mano fai quella che è rimasta autocostruita, Non so se sia più, penso che sia più pesante di quella originale questa. L'originale peserà pochissimo. Ma non saprei dirti, comunque. Vabbè, siamo nati per soffrire, diciamo così. Tu cosa vuoi mettere, la grimace originale? Infatti, quella lì volevo mettere io, ma è il tubo che è pesante, bisogna essere in un po' di persone per poterla piazzare, capito? Poi io non posso fare sforzi, sono stato operato a poco di ieri, avanti Rugonzi. Ma io lo so. Ma da dove lavori? Dalla finestra, da terra, una scala, cosa ci vuole? Ci vuole una scala per giù, per quello di giù, e poi dalla finestra di quello del secondo piano la mantieni, brum, e tira boni. L'ho tirata su io da quello del secondo piano, poi quello che era giù ce l'ha infilata nella staffa e via. Con la scala da terra? Eia. La scala ce l'hai, sei tutto? Sì che ce l'ho. E sino a Bacciaghi, cara, ne bigliamo un'altra. Poi quelli di su ti fanno la cortesia, te la fanno di farti entrare. Bisogna sporgerti dalla finestra, boom, e la tiri su. E così aiuti quello di giù, no? Vedi il campo. Ma non so, quando vuoi dimmelo. Qualcosa, un aiuto lo trovo anch'io. Infatti. Vediamo un po' se ce la facciamo. Se è tutto ci vuole l'antenna, però questa antenna si deve comprare. Mi devo comprare l'antenna prima, giustamente. E qui c'è un pacco di dinà, la Game Master originale. Molto, quant'è? 200, 300, quant'è? Non me lo ricordo, a Gianni bisogna dirlo che c'ha quella lì, lui. No, che costa un centinaio di euro, 120, 130, credo. Poi Gianfranco, ce ne sono due tipi però, c'era la 5 ottavi e la mezz'onda credo, così. Credo di sì, adesso ci ho compito al centro perché l'ho vista avanti ieri, anche sto guardando le cose. Ma comunque anche se costasse 180 euro è una sua antenna, solo per il fatto che uno sventi con i radiali, guarda, perché anche per me è un problema, io ci ho avuto distrutta già una X, come si chiama, X5000, di quelle alte da 5 metri di VHF, perché la cornacchia va e la usa come aeroporto, va al volo, non ce lo so quanto è pesante la cornacchia in atterraggio, a terra, blank, blank, blank, e quelli sono d'acciaio, eppure tutti piegati, tutti te li svirgolano come se le tattura, un casino. Poi se hanno preso il vizio di andare anche sul lato dell'antenna addirittura, si arrampicano e di lì fa peso, si piega e la sfascia, nonostante sia in vetrosina, non è prevista per le cornacchie l'antenna, tutto lì, quindi nata lì, comunque più leggera, io l'ho tolta, c'era una mantova 1 per carità, anche quella, la Game Master è una piuma in confronto, ha una mano sola la tiri su. E il palo questo pesante, hai capito, che da terra, cioè dalla mia finestra fino a su, non è tanto l'antenna, no? Se c'ho la mantova 5 su in campagna, che se ne sta ridendo, 2 mesi ci aveva quando me ne sono andato quell'antenna, nuova era. Ma se è pesante poi sfascia tutto, di lì dove sei tu poi è un disastro. Mettiti roba leggera, così anche se dovesse disgraziatamente cadere o spezzarsi non succede niente, capito? Anche perché poi in ogni caso anche se spezza viene sostenuta in qualche modo. Poi capo perché c'è tutta la parte elettrica interna, quindi. Sì, poi facile da manovrare. Che tubo hai? Da quant'è di diametro? Quanto è lungo? Non lo so quanto è lungo, però è lungo L'antenna però risulta bassa, perché c'è un 2 metri dal tetto, non di più. Il mio problema sono quei radiali che magari disturbano, non lo so, io voglio mettere la Game Master per quel motivo lì, perché magari per roba di TV, ahimè. Tu conta che io ce l'ho praticamente a fianco alla mia finestra, e che praticamente dietro quel muro c'è la televisione di una mia coinquilina, però lo so perché insomma ci entra a casa sua. È proprio, c'è solo il muro che la divide dal televisore all'antenna. Oh, non ha mai disturbato, oppure collego anche, insomma, 200-300 spicciolini, là. Figurati. Gianfra, interrogativo, lo stesso segnale, come sto uscendo? Perché sto usando il 3009 e quell'altro è sparito. Sì. Sì, io vedo questa cosa che è strana, comunque vabbè, no, è 9.17 mi sembra, 9.15, una cosa del genere, cosa volevo dire, mentre Franco credo sia arriva a 9, parli più forte Natale. Mi interessava se aveva variato di segnale nei tuoi confronti, perché l'ho messo diretto, ho tolto commutatore e tutto. L'ho attaccato direttamente al rosmetro per tenere sotto controllo l'antenna e buh. No, non più di tanto, è sempre lo stesso. E l'importante è quello, va. Più o meno quanto è lungo questo tubo? A occhio, 4 metri, 5 metri, quello che c'è adesso. Allora, sono tre piani, fermo 3 metri in un 3x3, 9, 9, 10, 11 metri. Minchia, è lungo. Ed è telescopico? Eia, però lo devi prendere tutto allungato dal secondo piano per poterlo tirare su insieme a quello che c'è giù sopra la scala, che lo deve infilare in quella staffa lì. Ho capito, quello di su lo tiene in verticale e giù stringe così, i collari, dai, il collare dell'antenna, del palo. No, deve solo infilarlo, non deve stringere nulla. È un'antenna per satellite, per parabola satellitare, ce la deve infilare lì dentro. Ah, più o meno come ce l'ho io qui davanti. Io ho messo un tubo in verticale, attaccato al filo per stendere, alla staffa per stendere, e quindi c'è il filo dentro tipo ombrellone, dai. La intacco dentro e si tiene da sola. Il filo è una pugna, c'è una pugnetta in legno, c'è. Qua non c'è né cugna né nulla, ce lo infili perché è la staffa che entra dentro il palo. Ho capito, comunque, vedi, ancora meglio, dai. Tutto sta a infilarla lì e poi ci tiene da sola. E poi, vabbè, quante staffe c'ha però? Solo una, solo quella tiene. No, c'è anche l'altra, quella al secondo piano. Se no c'è cosa, altre 11 metri, non credo che vuole tenuta. Stata lì, comunque, c'è anche su Amazon, questa la Game Master costa 160 euro praticamente, quella lunga, la 5 ottavi, da 26 a 30. Che io ho tutta la parte elettrica già costruita da me, ma non me ne sbatte nulla, metto l'originale e boh. Se vuoi stare tranquillo, sì. La metti bene, la fissi. E il peso è di 3 kg, per intenderci, quindi una piuma. Oh, non pesa nulla, ripeto, peserà sicuramente meno di quella che ho costruito io. Perché io l'adattatore di impedenza e i condensatori sono di cavo RG213, quelli sono di cavi sottili, sottilissimi, li ho visti, quanto un RG58 di diametro. E comunque potenza già in regge. Io ho provato anche con un po' di potenza. E poi forse c'è anche qualche cosina in più di quello che dicono loro come ampiezza di banda. Sto dando 26-30, in realtà è 25 anche 30, a seconda di come è posizionata l'antenna anche. No, vanno bene. è un'ottima soluzione, un'ottima invenzione quell'antenna. Tu conta la mia è a un palmo dal muro, mire, dalla facciata, eppure non mi dà stazionare, proprio è perfetta. Sì, sì, è proprio tarata in maniera spettacolare, è molto costante, lineare su tutta la banda, anzi ti dirò che scende anche molto più giù, quindi più giù ma soprattutto più su. No, come antenna è buona, poi la manutenzione è facile, semplice, non ti devi mettere lì col dissaldante, col disincrostante come nella mantova, per carità, mi è rimasta in mano a pezzi, era vecchia per carità, ha fatto tanti anni di onoratissimo servizio, niente da dire proprio, però poi marcisce e non va più bene, non fa più a ripararla neanche. Adesso c'è questa e non ce l'hanno avendo radiali, è più tranquilla come antenna. E come ricezione hai visto differenza? Questa è la mia, è autocostruita e mi sembra un po' sorda in ricezione. Sì, cavolo, se questa è sorda, io sento i tedeschi S0 ed è sorda, QRM è molto basso, sempre su star gamme, è ricezione spettacolare veramente, anche sui segnali bassi. Io posso anche amplificare di parecchio, c'ho esattamente 3 preamplificatori volendo, non li utilizzo mai, quindi non è l'originale, non è assolutamente sorda. Caffa, chiedo scusa un attimino per il ping pong, mi interessava perché, ripeto, magari questa perché è autocostruita, non lo so, e poi anche perché è attaccata, perché non è sul tetto, bisognerebbe provarla sopra, oltre il tetto almeno, sennò qui si potrebbe giudicare, comunque, vedremo, dai, avanti Natalia. No, non è sorda, mi sembra sorda, è più silenziosa, diciamo. I segnali sono proprio bassi, tipo il portatore non arrivava bassissimo qua, Eugenio mi arrivava un segnale di 1. Sorso lo stesso, ma mi sembra che mi arriva a Franco un segnale di 2-3. Allora non è fatta tanto bene. Non è fatta tanto bene perché io ti posso, guarda Eugenio, è intorno al 5, 6, 7, però io ho Monteoro davanti per portatore, quindi è stracoperto. Tu che sei aperto ti dovrebbe arrivare 9, 10, capito? Io qua sono chiuso per portatore, ma chiuso sul serio. Quindi è così, poi tieni presente che un'antenna che ti sente probabilmente molto dal lobo di radiazione, quindi è un'antenna che ha bisogno d'aria, in parole povere, deve essere libera, deve essere tirata su al punto giusto e vedi come cambiano. Io purtroppo anche verso Alghero c'ho un albero, alzato in più è un po' complicato, poi sai, essendo dalla 27 uno non è che si impegni più di tanto, ecco, dato anche poi arrivava un po' da tutte le parti, ma potenze ridicole, quindi non è il caso di arrampicarsi, perché anche lì c'è un salicetto di 6 metri, più c'è un tubo abbastanza lungo, però se l'antenna ha libertà, stai tranquillo che ti funziona bene. Ma la sua non è libera, quella di Franco, non è sul tetto, fosse stata sul tetto l'avrebbe sentita le matracche. Break. Avanti Giulio. Oh, ciao Franco, Gianfranco e Natalino, vabbè ci siamo sentiti poco fa, salutoni comunque di nuovo. Va bene. Discorso interessante, state parlando dell'antenna, la Game Master. A tutti i pregi di questo mondo, anche se a qualcuno non piace, a me piace e non trovo nessuna differenza né in trasmissione né in ricezione, per cui va bene così. Riprendi pure fra. Capo, tu le hai provate tutte, originale, autocostruita e più anche la Mantova, non so se forse la Turbo, cosa avevi? Sì, la Turbo, ce l'ho sempre, nuova, però ormai quella lì è dismessa, è messa da parte, non è più installata, per cui va bene così. Ce l'ho sempre, non me ne faccio niente, perché non me ne faccio niente, però non la do, mi piace averla lo stesso, dunque me la tengo, tanto non mi chiede niente, non mi chiede pane, non mi chiede niente. 2,5 kg di antenna è più che sufficiente, 160 euro, costa nuova, vabbè, io non avevo fatto praticamente uno scambio, per cui niente di particolare. Ed è originale. Flette molto quando c'è vento, però regge che è una meraviglia. Premesso che io l'ho rinforzata nei vari punti di collegamento dei clusi, dei, come si dice, dei pezzi del cannocchiale, dai. A ogni suo inserimento ci avevo messo un pezzo di tubo da elettricista, quello rigido, con il collare sopra e sotto, e va bene, può fischiare il vento quanto vuole. Non è molto alta, perché dal tetto dista sì e no 2,5 metri, non di più. L'ideale sarebbe metterla almeno 5 metri sopra il tetto, cioè distante dalle tegole e soprattutto da qualsiasi ostacolo circostante. Allora sarebbe il massimo della resa. 1,2, 1,1, 1,2, quando incomincio a mettere qualche watt in più, tipo che so io 20 watt ad esempio, allora 1,2, se no generalmente 1,1 su tutta la banda, va benissimo così, non c'è problema. Avanti Giafra. Sì, è quello che ho detto anch'io. Quindi non comprare in Natalino è l'installazione. Il tubo pesante è una bella iattura. Il tubo pesante da problemi, potresti ricorrere a quelli classici che vende coso. Io l'ho comprato parecchi, non c'è il nome, quello che c'è a Predanieta. Giorgio Grassi, dai, Giorgio Grassi, che te li vende anche a tubi separati, tra l'altro. Di lì te lo metti in versione telescopica, ti calcoli bene le spessori, no? Tanto poi in finale la Game Master ci può mettere quello che vuoi, un tubo non troppo grosso, ma ovviamente neanche troppo fino. Tanto l'attacco è tipo quella delle VHF, no? Si attacca lateralmente l'antenna, non la devi incastrare, perché è un buon vantaggio, perché vedi subito se poi ci sono problemi o senza stare lì a sfilare, attaccare, che è un casotto, e sei tranquillo. Io la sto guardando, infatti adesso c'è un po' di vento, ma neanche si muove, vorrebbe più alta indubbiamente, ma chi ne ha voglia di buttarne giù tutto il tubo, perché il problema poi non è l'antenna, è il tubo, è sempre il tubo. E infatti Gianfra, cosa ti volevo dire? L'ho piazzato quella di Gianni, io già la conosco com'è. Quindi hai visto che è semplice. Un attimino che sono con lo strumento, che sto facendo di testa con questa antenna, tanto bajamba, che per quella che ti dicevo, perché ci ho dovuto mettere la placca, e ovviamente adesso mi sta andando perfetta in 25 MHz, però mi interessa un pochino più sopra, ecco. Ecco. Giulio, dammi un controllo, guarda un po' a vedere il segnale se ha variato, che ho eliminato anche il commutatore, ci ho attaccato il rosmetro direttamente, ci ho il 3009 attaccato. 9 più 5 è nata lì, va bene, va benissimo. Prima con l'altro era il 9,10, ma adesso è il 9,5, va più che bene. Però picchi positivi, tutto a posto, radio ottima, non c'è problema, va benissimo. Se mi avessi dato tu retta quando te l'avevo detto, quando ne stavamo parlando qualche anno fa, te l'avevo detto, andata lì, metti la Game Master che risolvi qualsiasi problema. Purtroppo alle volte si fanno degli errori, vabbè, comunque. Hai preferito optare per un altro sistema, per un altro tipo di antenna, e quello per me è stato l'errore. Io ritengo che quello sia stato l'errore, perché, ripeto, questa è soprattutto efficiente, efficacissima a riguardo di quello, di quel problema che hai tu. Pensa che io ce l'ho vicinissimo, attaccata all'antenna TV, e grazie a Dio non fa nessun problema, nessun difetto. Figuriamoci tu, la metto al posto dove c'era la mantova tubo, che sarebbe stata ancora in una posizione molto ma molto più performante, prima di tutto perché sarebbe molto più alta, almeno 5-6 metri più in alto, e poi anche più distante da ogni ostacolo di antenna TV. Ma questa l'avevo messa qua perché quando avevo autocostruito quell'altra, per comodità avevo messo un palo nel terrazzino che è alto 90 cm, quello andava a alzare la finestra e lì rimane da 3 anni come minimo, sempre lì, compresa anche tutto il tempo che avevo utilizzato quando l'avevo autocostruita. E poi adesso quella originale va meglio così, sicuramente molto più consistente come materiale fibra, perché la canapa, si sa, è molto leggera, però al limite se uno vuole autocostruirsela e vuole fare una cosa più ben fatta, i tubi così li vendono, a livello di 20 euro, 25 euro, un tubo di quella lunghezza lo trovi, fatto arrivare naturalmente da fuori. Va bene, avanti Gioca. Se riprendi Franco, io sto facendo queste misurazioni. Casa, io purtroppo ancora vi devo salutare, che scendo a trovare i miei vecchietti, dai, che oggi è anche San Giovanni, e quindi siamo anche un po' di festa, diciamo. Ma auguri anche a Gianfranco, Gian Giovanni, no, non so se c'è stato qualcosa, però vi lascio, un abbraccio a tutti, Gianfranco, Giulio e Natalino, ok, riprendi Natalino. Break. Un attimo il break. Va bene, ciao Fra, buon proseguo e buona fiesta. Avanti break, anzi no, riprendi Giulio, fai girare, c'è anche un break. Ok, il break è registrato, ciao Franco, grazie per la chiacchieratina, a risentirci, dai. Un abbraccio come al solito, virtuale chiaramente, e molto molto significativo per mantenere viva l'amicizia. Ok, ciao Fra, alle prossime. Vai già Fra per salutare a Franco e poi fai entrare Gianni, vai. Sì, ciao Franco, buona serata. Alle prossime facciamo entrare il breaker, mi ha sembrato Gianni. Doppio room. Avanti Gianni. E allora saluto a Franco e saluto tutti quanti gli amici che sono in rotta. Buona serata a tutti. Ciao Gianni, ben entrato. Sei entrato nella banda che più ci piace. Va bene, dai. Non mi dire che sei in procinto di partire, come tu fai solitamente a quest'ora, in direzione Altura, per i fatti tuoi chiaramente. Non c'è problema. Le prendi già? Dalla banda Bardù. No, sono qua, dai. Sono fermo già lì. Sono già fermo e mi sto rilassando. Ciao Nannini. Ebbene, Lucrezia. Andiamo. Buonasera a tutti. Ciao Lucarie, ebbene, tutto bene? Ciao Giulio, sì, tutto bene. Sono andato a fare una passeggiata, sono qua. Ah, vabbè, dai, un altro momento, dai, ci sentiamo un altro momento. No, adesso è impossibilitato. In questo momento non è possibile, dai. Va bene, avanti Natalì. Ciao Gian, ciao Luca. E allora ciao a tutti quelli che sono a ruota, sai che io entro così come quelli del manicomio. Avanti un altro, avanti Franco, tu ci sei anche, Franco. Franco se n'è andato, che sta facendo, che deve andare a far visita a delle persone. Ok, avanti Giulio. Ehi, ok, dai, va bene così. Comunque non distrarre Natalino, non ti preoccupare per tanto. Mantieni quel sistema e sei ugualmente tranquillo, perciò va bene così. Avanti Gianni, allora canta, che stasera ti voglio sentire cantare, so che a te piace cantare, vai. A me piace, canto spesso. Cosa ti stavo dicendo? Perché Natalino che problema c'ha? L'antenna? Non lo so, rispondi Natalino, non so qual è il problema. Io avevo intuito qualcosa, ma non lo so che cos'è. Vai Natalino. E c'ho un problema che avevo prima, cerca di capire già. Ah, cap- scappa. Non ce la possiamo mettere la Game Master. E infatti adesso la facciamo arrivare. E vivo un po' di obbedienza, dammi una mano, perché io sforzi non ne posso fare. L'altra volta già l'ho tirata io dal secondo piano, ma non appena per addudirnia. Lei è magia leggera, la Game Master la prendi con un dito. Ehi, la Game Master sì, il tubo è che è pesante. Ma si può scendere quel tubo? Eia, si deve staccare dall'antenna, dal coso del satellite, dalla zappa del satellite, cioè la sfili, no? Non c'è problema per toglierne il tubo. È che pesante a mantinillo. Cava. Tanto scendendo, anche se si rompe l'antenna che c'è, non me ne sbatte nulla. No, perché si deve rompere, la me la togliamo bene. Ehi, per dire, se si dovesse rompere toccando da qualche parte, non me ne sbatte nulla. Cappa. Poi si è fermato il cavallino rosso, Uno è Ferrari testa rossa, si è fermato qua al quadrato. E ad Edo che se la può permetti già. La papà stesso ti dirà a nostri. Sovvicini, avranno io penso che avranno un 85 anni. Natali, l'ideale sarebbe avere un piccolo ponticello per poter arrivare almeno all'altezza della tua finestra, in modo da poter lavorare bene. Sarebbe l'ideale, poi con l'ausilio dell'altra persona, dell'altra finestra in alto, sarebbe molto ma molto più facile fare il lavoro. No, non ce n'è bisogno, già c'è la scala. È salito sulla scala coso Claudio, ce l'ha infilata lui, io la mantenevo da su dal secondo piano e lui ce l'ha infilata nella zaffa. Problema non ce n'è. Senti, chi va già avuto a BV? Lo so, vabbè. Claudio aveva fatto un gran bel lavoro una volta, perché era un po' difficoltoso ad appunto mettere quell'antenna lì nella posizione in cui è stata piazzata, ma soprattutto a causa della strada che è molto stretta. Il problema era anche quello, vabbè, perché c'erano solamente i radiali e impediva un po' la manovra. Comunque va bene, dai. Avanti Gianni. Ma la Game Master non c'è bisogno manco di mettere il tubo grosso, va bene anche un tubo fino, Natali. Un tubo tipo quello che ho messo io, di quelli telescopici. Quelli vanno bene. Io ho messo del tirante, va benissimo, già l'hai visto come l'ho fatto, io l'ho messo tutto nuovo da capo. Ma io tiranti non ne posso buonire, non mi attacco di tiranti già. Quello è. Vabbè, rimetti quello lì, Natali, rimetti quello. E ciccia, già va bene lo stesso. Rimetti quel tubo lì, la passi, basta che avviti due viti e sei a posto. Infatti, non vi vorrei lasciare la mano a farlo. No? Quella non è da di TVI, a me non mi hanno mai detto nulla, ma ho attaccato niente. Infatti, adesso ne ho le scatole piene. Cavolo. Penso che sia il tipo d'antenna quella che rompe le scatole, lo sai. Infatti, il radializo, lui è bassa e anche per quello. Se fosse stata alta sopra le antenne TV, magari non avrei disturbato. Ma la Game Master è fatto drill, secondo me. No, non dà più fastidio se prendi la Game Master, se no te la fai autocostruire e ti metti quella, ma è meglio quella originale, dai. Infatti. Beh, sicuramente sì, quella originale ha un'altra consistenza come tubo, diciamo, dai. È tutta un'altra musica, indubbiamente. Lo so, costa di più, però tutto sommato se uno è interessato a montare quella, va bene lo stesso. Non saranno 50 euro in più per dire che a uno gli rovina la vita, assolutamente no. Così è, vabbè, comunque, d'accordo, vedi tu cosa vuoi fare, vai Natali. Ma Natali. Sono andato a aprire alla 50, dovete scusare, ma stavate parlando e non vi ho potuto interrompere. Ah, io ho capito, vabbè,